finisce la lezione. Sei solo chiacchiere di Eccola, ed eccoci qua, finalmente. Se il microfono è attivo, sì, parrebbe proprio di sì. L'avviso di disconnessione denota che si va. Si parte come da tanti anni a questa parte. E nelle condizioni più estreme. Per tanti anni sono state quelle degli studi della radio, sempre in realtà un po' devastati dai nostri stessi atti vandalici verso le strumentazioni della radio, dal fatto che tecnicamente la radio, come sapete, si avvale del contributo di valentissime volontari, militanti attivisti che ne curano le attrezzature, ma la radio stessa connaturata da un'endemica costante nel tempo mancanza di denaro, perché Radio Onda Rossa è una radio a sé, come poche altre radio a Roma, ma soprattutto anche in Italia, pochissime radio gemelle che hanno, come Radio Onda Rossa, scelto l'autogestione come metodo di amministrazione e di gestione della radio stessa, e l'autofinanziamento, ovvero essere radio di movimento. Stare nel movimento e avvalersi del contributo che compagni e compagne ne hanno dato in questi anni, contributo anche economico. Ovviamente questo non vuol dire però essere una radio come tutte le altre che ricevono finanziamenti pubblici, partitici, della pubblicità, eccetera, eccetera. Nonostante questo, nonostante tutto, continuiamo ad andare in onda, siamo andati in onda durante le fasi più cruente della pandemia di primavera e continuiamo ad andare in onda ora. Quando è possibile da remoto. Quindi vi invitiamo ad andare sul sito della radio www.ondarossa.info, andando su Sostieni troverete una paginetta dove sarà possibile capire come sottoscrivere e sostenere Radio Onda Rossa. Lo fate in tanti anche chiedendo di contribuire in altri modi alla radio, di sostenerla, di entrare in qualche maniera in coordinamento con la redazione della radio stessa. Ed è così che Radio Onda Rossa vive da 43 anni. È uscita la scarceranda, magari ritaglieremo un pezzettino di tempo per darvene un po', così, quelle che saranno i prossimi appuntamenti. La scarceranda che da tanti anni è l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno, anche questa che si avvale di contributi di compagni e compagne da Roma, dalla radio stessa, da contributi che vengono da tutto il mondo e soprattutto contributi che vengono dall'interno delle carceri. Vi ricordiamo il numero del conto corrente postale 6180401, sempre per la sottoscrizione, per chi ama i vecchi metodi. 6180401, conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185 Roma, Via dei Volsci 56 San Lollo. Did you get your disconnection notice? Il recapito telefonico è 0649 1750, ma noi non siamo in studio, quindi trillate pure, ma non lo sapremo mai. Onda Rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni via email. E poi ci stanno i canali social, vabbè, manco ve li dico, perché tanto vi piacciono tantissimo, meno a noi. Noi invece iniziamo con una roba proprio dove abbiamo concluso la scorsa settimana, peraltro. To the one who find out how much she flies, you can tell me something's funky. And we wants to find out. E chissà se il banana. Ops. Vabbè, dai. Gradisce questa uscita 2020 per Serchia Radio. E questo è Super Freak da capo, Serchia Radio, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. To the one who knows how much she flies, you can tell me something's funky, and we wants to find out. Different tag. Critica, non tutti gli amanti di Certain Radio condividono questa loro uscita 2020. A noi pare che accanto ad alcune tracce non eccessivamente ispirate, questo lavoro SR Loco sia comunque nel complesso un lavoro all'altezza di grande suggestione e raffinatezza. I cui continui riferimenti, cambi di ritmo, di stile denotano quanto dagli anni 70 ad oggi. Jeremy Jetsker e Martin Moskrop abbiano saputo continuare a produrre. Delle cose assolutamente in costanza di livelli altissimi. Forse fra le cose più belle è proprio la traccia che apre, che stiamo ascoltando il disco, Friends Around Us. E Certain Radio, Radio Onda Rossa. Who is right and who is wrong? bass. Cool. You know how you make the bass better? Crank the bass up. Yeah. You know how you make the kick drum better? Crank the bass up. And it's like, no, not really. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, questa è 25 o'clock. It might be time. Decima traccia per l'uscita 2020. The Soul Rush, per quanto riguarda Tame Impala, cioè in altre parole la band di Kevin Parker. Che in questo disco diventa veramente una one band, one man band. Mentre negli anni passati, anche nelle pubblicazioni passate, Kevin Parker si serviva di una serie di musicisti che lo accompagnavano più o meno stessi, facendo insomma in qualche maniera un gruppo. In realtà questa produzione è assolutamente ed esclusivamente sua. Ascoltiamo da capo questa glimmer, non più chitarre, quindi per Tame Impala. It's like, oh, bass, cool, you know how you make the bass better? Crank the bass up. Yeah. You know how you make the kick drum better? Crank the bass up. Ma una produzione tutta elettronica, tutta fatta di tastiere e di effetti vari. Potete ascoltare anche qui il funk entra prepotentemente. Nel tessuto psichedelico di Tame Impala. All the while. Abbiamo fatto un bel salto indietro dalle prime uscite, dalle ultime uscite del 2020 per Certain Rate e Tame Impala. Tornando al 1992 con gli Screaming Trees. Screaming Trees di Mark Lanegan, forse. La tiriamo fuori, va dai. Se la voce femminile che ci fa venire di più i brividi è quella di Alexandra McLean Denny, anche detta Sandy Denny, con pianta, mai abbastanza, la voce maschile che più ci fa venire i brividi è proprio quella di Mark Lanegan. Destination 10, wherever you go. pubblicazione di un cofanetto negli Screaming Trains, Sweet Oblivion, il loro disco forse non di esordio, il secondo disco del 1992. Un cofanetto che comprende un secondo disco di tracce, non dico inedite, ma meno usuali. E quindi dopo aver ascoltato No One Now dal disco ufficiale, questa è Esk. Che ci serve anche per dire che c'è la presentazione della Scarcerando 2021 in diretta Radio Dal Forte con il mercato Terra Terra, interventi e musica. Dalle 14, presentazione di Scarcerando 2021 dedicata a Salvatore Ricciardi. Lettura e microfono aperto, presentazione del calendario Genova 2001-2021 a cura di Zero Calcare. Un saluto individuale e collettivo insieme al compagno Salvo. Contributi audio, musica e video 15 novembre, Certo Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino, via Federico D'Alpino 169, Radio Onda Rossa. Al Forte. E ancora Screaming Trees con la più classica delle ballate. Night and early this morning, no glass. quindi dalla versione acustica alla versione invece elettroacustica del disco ufficiale Winter Song Screaming Trees, e ci serve per introdurre, ormai la frittata è stata fatta, non ce ne vogliate. Nei mesi scorsi, quelli del lockdown, abbiamo cominciato a riconquistare il tempo, quello rubato ai ritmi del consumo e della produzione, per occuparci o avere più tempo per l'autoproduzione, per quella roba che sì, insomma, vi piaccia o meno, però ci dà soddisfazione. Quindi sono partite insieme al fantasma le girandole dei Trip Virus. E quindi non ci resta che riproporvene uno. Just out my back door. Credo che sia di maggio o giù di lì. No, per l'esattezza il 9 giugno. Quando un po' così cominciava a scricchiolare la retorica degli eroi in camice, e invece uscivano sempre più nette quelle che erano le carenze di un sistema sanitario distrutto dalle privatizzazioni e dai continui tagli a favore, diciamo, del cosiddetto sviluppo, in cui sempre più la salute, il benessere nel senso di stare bene, veniva barattato e veniva sempre più mercificato. E per cui, grazie all'ausilio di Zero Calcare, involontario e inconsapevole, e di Ebracca Sound e di altri, nasceva Eroi del Cazzo, Trip Virus.

tutti a finire la quarantena, e detto sinceramente, ma che siamo lì ancora? Prima vivevamo tutti insieme sta frustrazione collettiva, stavamo tutti uniti, tipo i sopravvissuti sull'isola di Rosso. Poi la metà di chi si guardava sti cartoni, giustamente pure la sera ricominciava a drogarsi per recuperare i mesi sprecati. L'altra metà è tornata sardamente sulle proprie priorità e mi scrive: ma perché non fai un video contro i negri? Ma mica per niente, ma sono tanti, mi abbassano, devo una tonalità a tutta la palette del paesaggio. Io sono cromopatico, con colori scuri mi viene la psoriasi, ha detto omeopata. Quelli che avanzano saremo rimasti in 15 e potremo fare un gruppo WhatsApp invece di un cartone ogni settimana. Ma siccome martedì fuori dal supermercato ho incontrato Lele, ho pensato, vabbè, appena volta mi posso pure sta zitto io e fa parlare un altro. Pezzo la 90 poi, è l'Ele dei casi popolari, eroe sanitario di questo tempo, angelo dei ponte mammolo e Bibbia. Certo uno pensa che l'angelo sono quei bambini tipo i puttini carini, i boccoli biondi. Lele mi pare più un cinghiale che ha attraversato l'apocalisse dei Kenny il guerriero. Comunque non lo vedo da prima della quarantena e quindi lo ringrazio perché in questi due mesi mi hanno fatto tipo la cura Ludovico d'Arancia Meccanica. Ripete, 2000 volte al giorno, infermieri sono eroi, bisogna ringraziarli, infermieri sono eroi, bisogna ringraziarli. Io sono un ragazzo educato e quindi lo ringrazio. Grazie Lele! Grazie ragazzo! Lele, per favore, non essere scurile, dovresti essere contento che finalmente questo paese va riconosciuto il prestigio sociale che voi meritate. Tu avevamo pure fatto l'applauso dal balcone, ma che vuoi, del più bestiaccia ingrata, ti è? Fa pure scegliere una figurina con l'animale che preferisci come premio. Come premio basterebbe essere assunto direttamente dall'ospedale, che sono 20 anni che sono sotto la cooperativa. Nell'ospedale tu sto io, siamo circa 800 e sono usati come cane da macello. Ci sbattono, non lo vogliono loro, ci pagano il 30% meno di quelli assunti al pubblico e manca a mezza potevo andare. Ah, ma pensa che non la sapevo di sta cosa, che pure gli infermieri hanno una gerarchia tipo i cavalieri dello zodiaco, gli infermieri d'oro, gli infermieri de bronzo. Ma che de bronzo? Lavoriamo tutti col cuore e il problema è come ci siamo andati a finire a lavorare tutta la cooperativa dentro l'ospedale pubblico. È un giochetto per farci divide e per farci fare la guerra tra poveri, nata da quando hanno trasformato tutto in azienda, quando si sono aumentati le asme. Io annuisco perché è costume, quando uno parla di una qualsiasi istituzione alza l'occhio al cielo e dice sì, è una merda. È la base delle interazioni sociali che ti insegnano giustamente nel manuale di come si sta al mondo in società. Ma la verità è che io non so un cazzo di come funziona il sistema sanitario nazionale, eppure sti giorni che si parlava solo di ospedali a me non mi pare che mi ha spiegato nessuno. Quindi l'unica cosa che mi ricordo negli anni è la discussione: hanno levato il ticket, hanno rimesso il ticket, hanno levato il ticket. Ti prego, siccome ci devo fare un video, mi dici che c'ha l'ASL che non va? Fino al 92 si chiamavamo USL, Unità Sanitarie Locali, e dovevamo curare la gente. Mo si chiamano ASL, Aziende Sanitarie Locali, e mo la salute se la vendemmo, sempre se te la puoi comprare. Mo siamo nel mercato, dovemmo essere competitivi, stiamo in gara pure con le parti accanto, e tipo il Monopoli. E i soldi si chiamano DRG, che praticamente sono le diagnosi, e vengono pagate all'uscita, quindi per vincere bisogna farne il più possibile di quelle più costose, scartare quelle più economiche e cercare di dimettere il prima possibile. Ma signor, ma che c'è nel inguinale? E che ci famo? Dai, aggiungiamoci una malattia infettiva, che di questi tempi ci esportiamo. Più gente si ammala e più si guadagna. E non parlare della trovata dell'intramenia. Io sono in braccio perché ho fatto pure il classico, ma io non so che vuol dire intramenia. Intra vuol dire dentro, moenia non mi dice niente, forse a scuola quando lo spiegavano sicuro qualcuno avrà fatto la battuta. Moenia pozio! Moenia, l'abbiamo ascoltato, comunque sono uscito 19 anni fa pure, quindi fammi la cortesia, spiegami che è. Intramenia è la possibilità per i medici di fare attività privata dentro l'ospedale pubblico. Praticamente, se te devi fare un'operazione al ginocchio col ticket, devi aspettare 6 mesi. Ma se paghi una bella prestazione intramenia, in 3 giorni è risorto. E dai che la fila dei ticket si allunga. Insomma, chi non c'è i soldi diceva il famoso buono della sorella. Vabbè, ma che toccherebbe fare? Se uno volesse pensare a un modello diverso, che se dovrebbe immaginare? Io devo stacchiare a te perché ce la vuoi, non ci capisco un cazzo. Te posso dire come secondo me Netflix dovrebbe riorganizzare il catalogo, come dovrebbe dividere le serie che suggerisce, perché quello è il territorio mio. Ma su come si riorganizza il sistema sanitario io faccio un passo indietro, È tutta una rota. Se il pubblico funzionasse, il privato non avrebbe mercato. Se ci fosse una sanità territoriale pubblica senza precari sottopagati, se si perseguisse la salute per tutti e non il profitto, le persone si ammalerebbero di meno. Ma se ci sono meno malati, dove sta il guadagno? Che dobbiamo salvaguardare? La salute o il PIL? Tocca scegliere, regà. Vabbè, ma l'eroe, dove stanno l'eroe, i santi, i martiri? Chi si carica i nostri peccati? Che storia raccontiamo qua se non c'è sta l'eroe? Ma quale eroe? Basterebbe avere chi si prende cura di te in maniera umana, che ti vede come un essere umano e non come una cosa da riparare. L'imposito invece sia dignità per chi lavora e per chi viene curato. Forse c'è bisogno di eroi, ma della comunità che si riconosca in valori di solidarietà, di condivisione, piuttosto che di competizione e profitto. E niente, poi si è andato perché era il turno suo. Io ho pensato che davvero di sta roba io non so niente. Per questo mi piacerebbe che noi abbiamo scavallato una super maxi emergenza. Tutte queste categorie che avevano trasformato in felici, potremmo pure provare a sentire che ci hanno da dire invece di buttarle via. Ma che te butti a scemo? Questi mo' surgeramo, così la prossima volta che torni d'atti 3 minuti al microonde e c'è già l'eroe pronti per la prossima pandemia. ce ne andiamo a inguinare. E che ci famo? Dai, aggiungiamoci una malattia infettiva, che di questi tempi ci esportiamo. Lavoriamo tutti col cuore, il problema è come ci siamo andati a finire a lavorare tutta la cooperativa dentro l'ospedale pubblico. Sarebbe stato assunto direttamente dall'ospedale, che so vent'anni che si è assunta la cooperativa. È un giochetto per facce divide e per facce fare la guerra tra poveri, data da quando hanno trasformato tutto l'azienda, quando si sono vent'anni le altre. Siamo nel mercato, dovremmo essere competitivi, stiamo in gara pure con le parti accanto, è tipo il Monopoli, e i soldi si chiamano DLG, che praticamente sono le diagnosi, e vengono pagate all'uscita, quindi per vincere bisogna farne il più possibile di quelle più costose, scartare quelle più economiche e cercare di essere il prima possibile. E quindi io ringrazio, grazie Lele, grazie a cazzo, grazie a cazzo, grazie a cazzo, grazie a cazzo, grazie a cazzo, grazie a cazzo, grazie a cazzo, grazie a cazzo, grazie a cazzo, grazie a cazzo, grazie a cazzo, grazie a cazzo. Entro poi. vibrare lento, calore e piacere mi scorrono dentro gli ti rompe il tuo cuore. I'm trying to break your heart. All I can see is black and white. 2002 usciva questo Yankee Hotel Foxtrot per Wilco, la band di Chicago. Il loro è un country allucinato e farneticante. John Stirratt, Jeff Tweedy, Glenn Koch, Michael Gorgensen, questa era la band proprio di quell'anno del 2002. E questa è I Am the Man Who Love You. To blue, the between the words I think on a bench. I was meaning to say, you I couldn't tell if it bring my heart the way I wanted when I started writing this letter to you. And if I could, you know I would just hold your hand and you'd understand. If I could, you know I would just hold your hand and you'd understand. If I could, you know I would just hold your hand. Understand, I'm the man who loves you. A questo punto su Onda Rossa non potevano mancare Calexico a 25 o'clock. Every breath, comes, his troubles aside. Each shrine of every mess, where the woman appeared with a guillotine smile. She handed him a rose, and he turned to stone. She handed him a rose, and he turned to stone. Ed era il 1996 quando la sezione ritmica dei Giant Sand Joy Barnes e John Convertino andarono a costruire le basi di quelli che sarebbero stati Calexico a Tucson in Arizona. And the queen of hearts. Ve l'abbiamo raccontato un milione di volte, Calexico è proprio il nome di una località che si trova su quel muro, su quella barriera che separa i ricchi dai poveri. E che impedisce agli uomini di muoversi e alle donne di spostarsi. Ecco i monumenti della modernità, proprio quella frontiera che divide il Messico dalla California, Calexico appunto. E che invece nel caso dei Calexico la band produce quel miscuglio di sonorità a metà fra il latino e invece le sonorità di provenienza più celtiche, il blues, il country. Producendo dei suoni che, ovvero che a noi ci affascinano, ci intrappolano, ci rapiscono, e spesso non riusciamo ad abbandonare Calexico. È uscito un loro ultimissimo lavoro, questo qui è del 2019, che profeticamente si chiama Years to Burn. Ne è uscito uno del 2020 che dovrebbe prendere il nome, ve lo dico fra un istante, di Seasonal Shift, scusate. Diciamo Seasonal Shift, che non ci è, però ha avuto, c'è stato modo di ascoltare, di avere fra le mani. Eppure siamo avidi dei lavori dei Calexico. Vabbè, Onda Rossa 25 o'clock, andiamo su un altro classicone di questo spazio. Vi facciamo normalmente ascoltare la versione da studio, e invece questa volta ascolterete quella live. Quando sono passati 11 minuti dopo la mezzanotte, tanto per dirvi che siamo qua in diretta per tutte e tutti voi da Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, Mondo Generator, Nick Olivieri, questa è Autopilot. Maps to the world never seen. mira que passa sense saviesa pel vell camí fressat tan sols un cop. I que la veu de sobte cridarà el secret nom que porta en tu la mort. No tornaràs, recorda, no t'apartis mentre fas via del que tan senzill és d'estimar. Aquest blat i la casa, blanc senyal de barca dins del mar, el lent or de l'hivern ajaçat a les vinyes, l'ombra d'un arbre damunt l'ample camp. Oh, sobretot, estima la sagrada vida de l'arbre i la remor del vent a les branques que s'alcen vers la lluna. Time you felt for my Uscita questa seconda uscita nel 2020, anche questa non molte settimane fa. Per quanto riguarda l'accoppiata Rinaldo Raul Free, Rinaldo non ha bisogno di particolari presentazioni. Dagli inizi degli anni 80, 1982, nei Sonic Youth, una marea di opiates and nicotine, swollen fat like... di partecipazioni, sperimentazioni e accoppiate Daggers, electric, threatening the Congress. Improbabili, ma estremamente efficaci. Raul Free invece è un producer, polistrumentista, ex panchettone, insomma, proveniente invece dalla penisola iberica, che qui è nella veste di producer. Dicevamo seconda loro uscita, almeno per questa accoppiata, una nel 2019 e poi nel 2020. Name of the North End Woman, da cui abbiamo ascoltato l'Espriu Mix di Amps. E questa è proprio la title track, come si dice, Names of the North End Woman. You are like the soul, we are like the soul. Goblet, resuscitated amber, never gonna make it whole. Oh, an exposed body burning like a blast furnace, rubber lip like a copycat bowl. A Darwin, Danish, maybe a Democrat, emboldened in the buttermilk hole. Now Maggie's on the verge, hardly making any sense, slipping to the handcuffs. Oh. We are like the snow. We are like the snow. We are like the snow. We are like the snow. cilindro di uno dei personaggi più prolifici dell'ultimo periodo, il producer canadese Caribou, Daniel Victor Knight, in arte Caribou, con questa Ravi noi vi lasciamo. Quando abbiamo superato la mezzanotte, proprio da 30 minuti, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana laziale, www.ondarossa.info. Vi ricordiamo la presentazione di Scarceranda 021 il 15 novembre al Forte Prenestino, via Federico del Pino 169 Roma, diretta a Radio Dal Forte con il Mercatino Terrarella, interventi e musica dalle ore 14, presentazione Scarceranda 2021 dedicata a Salvatore Ricciardi, lettura e microfono aperto, presentazione del calendario Genova 2001-2021 a cura di Zero Calcare. Il saluto al compagno Saldo con contributi audio, musica e video, insomma. Anche in questi tempi ci vediamo, ci sentiamo al Forte Prenestino il 15 novembre. Che poi è domenica. Le programmazioni della radio finiscono qui, si proseguirà in diretta domattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadini, redazione della mattina, e poi il pomeriggio tutta scena cinema. A Attica, Blues, Schiena del Sol, il Mezzedes e via discorrendo. Tabula rasa e i cuginetti di Apostasia, che non so come faranno a trasmettere data l'ora. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, letteranza, clandestinità, arresti domiciliari, famiglie girati, CIE. La prossima settimana saremo di nuovo qui, salvo imprevisti. Ci avevamo un dischetto dei Violent Femme, sempre uscito, recentissimo, da ascoltare. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai! Dreams under a communist